YouTube Social Village di Marta Cagnola. 16, 5 minuti e 32 secondi a Radio 24. Siamo in diretta anche oggi con il nostro RadioTube. Due ore, RadioTube Social Village, RadioTube Social Network. La prima ora di spettacoli, la seconda ora di attualità della rete e dalla rete. Sì, insomma, rispetto al solito, ve l'abbiamo detto già la scorsa settimana, dovete avere pazienza perché magari i collegamenti non sono proprio perfetti. A volte la qualità dell'audio non è proprio perfetta perché, insomma, ognuno è a casa sua. Io sono davanti al microfono, ma dietro il vetro c'è Roberta Frisani, c'è Edoardo Lavezzari, a casa che ci sta facendo redazione in telelavoro Alessandro Schirano, un bacio Alessandro, insomma lavorando in totale sicurezza, ma insomma con qualche piccolo compromesso per riuscire a confezionare la trasmissione al meglio che possiamo. Nella prima ora, vabbè, parliamo di tanti argomenti, torniamo a parlare di serie TV e a questo proposito 349-238-6666 per sms e whatsapp, la scorsa settimana ne sono arrivati tantissimi, quindi tra poco tornano Marco Villa e Diego Castelli per parlare di serie. Questa volta ho chiesto loro di trovarci delle chicche che non conoscete. Poi parleremo di musica e parleremo di una nuova piattaforma che arriva, e visto che stiamo esaurendo tutte le serie TV possibili e immaginabili nel tempo libero che abbiamo a casa, perché c'è qualcuno che scrive ma noi a casa lavoriamo, certo, anche noi lavoriamo tanto da casa e siamo fortunati noi che possiamo fare anche del telelavoro, ma è il tempo libero che ormai si è trasferito nelle nostre case e dunque parleremo di una nuova piattaforma che sta per arrivare. Ma iniziamo con la televisione tradizionale. Sta per arrivare una film TV che è davvero davvero da vedere, eccolo qua. Se mi fanno fuori do mezza paga mia. E sarebbe? Dovresti dare regista, devi farmi di una battuta. Una sola, ma te faccio fare bella figura, ho fatto l'Accademia di Milano io. Mezza paga? Ave Cesare! Stop! Che? Ma che c'azzecca Cesare? Lui è Scipione l'Africano, hai capito? Ah, Scipione l'Africano lui? Vabbè, però è un console, come se un gerarca fascista dice saluto Arduci. Bravo, peccato che Giulio Cesare è nato 80 anni dopo Scipione, hai capito? 80 anni dopo? Sei sicuro, dottor? Armando! Armando! Eccomi, dottor Gallone! Ma che sta, chi cazzo è? Alberto Sordi, ho studiato recitazione. Portalo via, se no lo mette in mano in cuore. Perché? No, dai, lascia perdere, ancora sì. Dottore! Un film TV per festeggiare i 100 anni dalla nascita dell'Albertone nazionale. Su Rai 1 in prima serata il 24 marzo permette Alberto Sordi. Il protagonista, appunto nei panni di Alberto Sordi, è un bravissimo Edoardo Pesce e l'abbiamo contattato telefonicamente qualche giorno fa e gli abbiamo chiesto: ma com'è stato quando ti hanno proposto di interpretare Alberto Sordi? Guarda, è stato un po' un lavoro di squadra, nel senso che poi Luca Manfredi, quando mi ha detto, dice, vorremmo fare un film su Sordi, ti piacerebbe fare un film su Sordi, ho detto va bene, dico Sordi chi lo fa? Però poi è stata più che altro una prova abbiamo fatto, perché abbiamo fatto un provino molto buono, durava 8 ore, abbiamo fatto come se fosse una giornata di set, perché abbiamo fatto 3 scene, con un po' di trucco al naso e poi i capelli anche, abbiamo fatto un po' una via di mezzo tra me e Sordi, però insomma per me è significato un grande onore, una cosa bella veramente. Su cosa hai lavorato in particolare? Perché poi il rischio è quello che il pubblico non identifichi il personaggio, oppure dalla parte opposta di scadere nell'imitazione. Come hai fatto tu per trovare l'equilibrio? È quello, abbiamo cercato di trovare questo equilibrio, appunto, come dici tu, provando, guarda, un pochino, nel senso, un po' istintivamente quella romanità un po' ce l'ho perché vengo da una famiglia romana. Mio nonno, anche la mia bisnonna, quindi erano romani veri, quindi non, non parlavano romanaccio, diciamo, ma romanesco, quindi un po' quella romanità un po' antica l'ho vissuta. Quindi la musicalità, un po' il ritmo un po' che aveva lui, un po' la camminata, un po', sai, quell'espressione che ha lui, un po' sempre con le sopracciglia un po' malinconica, un po'. Ecco, più o meno abbiamo dato alcuni tic, se si può dire, alcune caratteristiche. C'è l'aspetto della gioventù, perché noi partiamo da quando Sordi è ragazzo e viviamo 20 anni di questa vita, insomma sfioriamo il primo successo di Sordi. Sì, guarda, è un progetto veramente di omaggio spassionato, è un film TV, dura neanche 2 ore, durante le quali si affrontano comunque più o meno quasi 20 anni della vita di Sordi, quindi ovviamente non siamo potuti andare troppo in profondità su alcuni aspetti. Diciamo che è come se fosse un album di fotografie degli eventi più importanti che hanno caratterizzato il Sordi privato e anche personaggio, e quindi va dal 37 più o meno al 56-57. Su Sordi privato sono curiosa di sapere quali sono state le vostre fonti. Ma le fonti sono state delle biografie, poi anche Tati Sanguinetti ha partecipato alla sceneggiatura, insomma, da alcune fonti. Abbiamo cercato di descrivere l'amicizia con Fellini, questa storia d'amore con Antonina Pagnani, che forse non tutti conoscono, con cui era stato tanti anni, però ecco, era più grande di lui di 11 o 12 anni, che per l'epoca insomma era un pochino quasi un tabù, e forse è stato l'unico amore della sua vita. Molti giovani, a noi sembra assurdo, ma molti ragazzi molto giovani non sanno chi era Alberto Sordi. No, non lo sanno, guarda, io c'ho un ragazzo qui sotto, per esempio, a casa mia, che non lo conosce, ha 24 anni. Mi ha detto, ho visto la pubblicità, ma che film è, su chi è? Dico, ma su Alberto Sordi. Non sapeva chi fosse, però... Ma sai, le nuove generazioni telegano un po' tutto al telefonino, a Google, a Wikipedia, quindi... Beh, speriamo che, insomma, una cosa in questo periodo in cui poi siamo anche un po' costretti a raggomitolarci, sì, in casa, ecco, diciamo che... Ma può darci che lo vedano anche i più giovani, ecco. Può piacergli, anche perché parla di tenacia, di credere nei propri sogni, di volontà, ecco, abbiamo descritto molto questo suo non arrendersi di fronte ai no, di fronte... le porte in faccia, cosa che magari un pochino sono meno abituati, mi sembra, i ragazzi di adesso, sono un po' più fragili. Ti devo chiedere come sta andando in questi giorni, come la stai vivendo, perché gli artisti stanno cercando di starci vicini, non è facile. Ma ti dico la verità, non sto male a casa. Sto abbastanza bene, ma anche prima ci stavo volentieri, quindi per me non è una grande fatica. Approfitto per stare un po' con me, suono, leggo, faccio anche un po' di attività qui a casa, poi c'ho un balcone col sole, sto in un piano alto fortunatamente, quindi diciamo, la vivo abbastanza bene, anche a parte i rapporti, gli amici, i parenti, per me che stanno da un'altra parte, adesso è meglio stare un po' distanti, però si può anche sfruttare questo periodo, anche se l'occasione non è proprio allegra, per stare un po' con se stessi, perché anche in questo, insomma, no? Poi in questi tempi social, le cose, uno sta sempre connesso, è sempre molto veloce il tempo, quindi magari si può approfittare per prendersi un po' di calma, stare un po' più con sé, riflettere, non so. E poi magari la settimana prossima ci viene voglia anche di rivedere qualche film di Alberto Sordi e magari avremo, sì, anche il tempo di farlo. Speriamo che piaccia, io spero che piaccia alle persone, ecco, a chi lo vede poi martedì. Dai, l'ardua sentenza, ma sono sicura. Edoardo, ti devo ringraziare tantissimo. Speriamo. Anch'io passo il mio tempo con me e devo dire che... Alla fine l'importante esatto, l'importante è pensare di essere una buona compagnia, perché guarda, il problema è ce l'hanno quelli che non sanno, non sono una buona compagnia, stare da soli. Stessi. Brava. Grazie Edoardo, in bocca al lupo tantissimo, davvero. Crepi, viva il lupo. A presto, grazie. A presto, ciao, a presto. Grazie. Ciao, ciao. Scusate se ve lo dico, Soraldo, ma ho come una leggera impressione, ma leggera, che non mi state ascoltando. Giovanotto, la carbonara è una cosa seria, altro che cinematografo. Ecco, quell'espressione la puoi usare in un film, quando ti abbandona un amore. Adesso fammi una faccia felice. Ricordati che stai in primo piano. Sì. E sbrigati con le uova. Le uova? Ecco. Ti fa male la faccia? Adesso sei pronto. Sono pronto, per cena. Beh, per quello magari ti serve ancora un po' di cottura. Ma per la carbonara mia, sei pronto di sicuro? Una mamma mia. Allora, permette Alberto Sordi il 24 marzo su Rai 1 per riscoprire, avete sentito, anche per qualche ragazzo, per scoprire Alberto Sordi, magari poi ci verrà la voglia di rivedere un sacco di film di Alberto Sordi. Bravo, bravo Edoardo Pesce, vale la pena vederlo, io l'ho visto in anteprima, devo dirvi che vale davvero la pena vederlo. Allora, breve pausa, viabilità e poi saremo ancora insieme per parlare di serie TV. One Express, il pallet espresso. Vi presenta. RadioTube Social Village. Allora, è il momento di parlare di serie TV, l'avevamo fatto anche la scorsa settimana con i nostri due ospiti, ma c'era qualche ascoltatore voracissimo ed esigentissimo, diceva: sì, ma questa l'ho già vista, avete qualcos'altro da consigliarmi? Sì, ma anche questa l'ho già vista. Allora ho incaricato i nostri ospiti di trovarci delle vere chicche. Allora iniziamo con questa sigla che io non so cosa sia, sentiamo cos'è. Once you were a seafolk and you sailed upon the sea, across the roaring ocean with the devil at your heels. All that time has come again now, I'll tell you how this will unfold. I wanna see the western ocean painted black and gold. Mi dicono che questa è la sigla di Occupied. Non so cosa sia, io questa serie non l'ho vista. Do subito il bentornato ai papà di Serial Minds, al nostro Diego Castelli. Ciao Diego! Ciao! Eccolo qua, è Marco Villa. Nostro, ho detto nostro a uno, diciamo anche nostro all'altro, Marco Villa. Ragazzi, allora, quante serie avete visto questa settimana, Diego? Troppe, sempre troppe. Sì, troppe, cioè ormai escono dagli occhi. E il fatto di stare a casa tutto il tempo comunque non le fa finire, quindi... Ah, non le fa finire questa cosa? No, cioè, comunque troppe. Ok. Ma Luigi da Pisa ha visto Peaky Blinders? Ah, adesso esatto, vediamo se Luigi da Pisa è all'ascolto, perché Luigi, poi magari invece Luigi li ci ascolterà questa settimana in podcast, non lo so, però se Luigi da Pisa è all'ascolto vogliamo sapere se ha iniziato Peaky Blinders. Chi mi racconta cos'è questa Occupied? Perché il nostro Alessandro Schirano mi ha detto: guarda, iniziamo con Occupied, con questa sigla. Che cos'è? Io non lo conosco. È una serie Villa, molto interessante. Ci pensa il Villa, ok. Ci penso io. È una serie molto interessante che arriva dalla Norvegia, diciamo un po' la Hollywood dei fiordi, da Oslo. Una serie molto interessante che è iniziata nel 2015, dura due stagioni, in totale di 18 episodi, quindi anche una visione molto semplice, molto immediata. Il nome grosso intorno al quale ruota è quello di Joe Nesbo, il giallista celeberrimo, certo, per il personaggio di Harry Hall. Occupied è ambientata appunto in Norvegia e si ipotizza uno scenario fantapolitico in cui al governo norvegese salgono gli ambientalisti e decidono che non faranno più una politica energetica basata su petrolio e gas, quindi mandano in crisi un po' tutta l'Europa che sul petrolio norvegese in parte si appoggia, e per questo motivo vengono pacificamente, tra mille virgolette, invasi dalla Russia. Ovvero, quindi una situazione molto interessante, fantapolitica ovviamente, ma molto interessante perché è un discorso di occupazione, appunto come dice anche il titolo della serie, molto leggero, molto sottile, nel senso che non arrivano i russi con i carri armati come potremmo immaginare in una serie di questo tipo se fosse ambientata nel Novecento, ma è un'occupazione molto più di diplomazia, di intelligence, di rapporti, di pressioni. Ovviamente poi c'è anche un controllo del territorio e della popolazione, però diciamo molto più ventunesimo secolo, un po' cambiato, un po' più subdola come faccenda, e quindi questo rende la serie veramente molto interessante, l'idea dello spunto iniziale che secondo me è davvero anche molto intelligente. Beh, singolare, singolare. Allora, ancora delle chicche. Io so che Alessandro vi ha chiesto una, in particolare Norseman. No, allora devo parlare ancora io. Allora ancora il Villa, sì. Io sono l'esperto di Norvegia, di Serial Minds, perché anche questo è norvegese. Allora, Northman, comunque come Occupied, anche Northman è presente su Netflix, quindi facilissima da vedere. Se Occupied è una serie comunque drama, di azioni, di spionaggio, Northman è una comedy. La cosa divertente è che è ambientata al tempo dei vichinghi, ovvero siamo intorno all'Ottocento più o meno, e la cosa divertente è la visione di una comunità vichinga che noi siamo abituati a vedere in maniera molto violenta, molto ruda, ad esempio con Vikings, l'altra serie su questo tema, che però appunto affronta il tema storico in modo più rigoroso, cerca di essere una serie storica. Norseman è un cazzeggio gigantesco. Che è già presenta... più per me, allora, ok, sì. No, proprio ci si diverte proprio tanto, cioè è una di quelle serie comedy in cui si ride tanto. Mia, segno Norseman, che così questa subito è difficile spiegare di cosa parla, perché appunto oltre al fatto di dire che la vita di questa comunità, bisognerebbe entrare nel dettaglio dei singoli personaggi, delle singole interazioni. Per dire, mi racconto soltanto un personaggio che è forse quello più folle, tale Rufus, che è un romano che viene fatto prigioniero durante alcune delle scorrerie, dei raid, come vengono chiamati nella serie, compiuti dai vichinghi nell'Europa continentale. Ovviamente i raid sono considerati come se fossero la scampagnata del fine settimana, perché i vichinghi sono talmente violenti che qualsiasi cosa che sia sotto un saccheggio è semplicemente un passatempo, come se fosse la settimana enigmistica. Certo. E questo è tutto il tono. Nel nostro immaginario sicuramente. Infatti, questo Rufus è il romano, quindi quello civilizzato, inurbato, che arriva e fa l'intellettuale della situazione, quindi... nel momento in cui arriva riesce a conquistare il re del villaggio e cerca di imporgli tipo l'organizzazione di un festival culturale, cerca di fare una biennale d'arte, e si arrabbia perché gli altri non lo seguono e pensano soltanto ad andare a saccheggiare dei monasteri in Inghilterra. Beh, mi piace moltissimo. Una serie di Diego, cosa ci suggerisci tu? Posso rilanciare due porno giapponesi? Due porno giapponesi? Esatto. Allora, il primo che vi dico è The Naked Director. L'ho visto! Bella! Ma non è porno! Immaginavo che l'avete preparato sul porno giapponese, che in italiano è il regista nudo. Il regista nudo. E praticamente racconta la storia di questo Toru Muranishi, che diciamo figura un po' mitica, pionieristica, diciamo, del porno giapponese, che è uno che negli anni Ottanta aveva questa passione, tra una passione per l'arte, per l'espressività, e però anche una passione molto forte per il sesso, e decide pian pianino, lui faceva tutt'altro nella vita, decide di darsi all'industria del porno, che negli anni Ottanta in Giappone era ancora all'inizio. Poi il Giappone è un posto un po' particolare, dove sanno essere molto feticisti, ma anche estremamente pudichi da un certo punto di vista. Infatti il loro porno notoriamente è tutto censurato, non si capisce bene perché, ma perché hanno questa idea qua. Ed è una storia molto, molto particolare, giocata spesso sui toni della commedia, piena di personaggi abbastanza pittoreschi, abbastanza strani e curiosi, sia che siano amici suoi in qualche modo che lo supportino nella sua avventura, sia che siano antagonisti, produttori, avversari, quello che ci pare. Ed è molto bella, è una serie che ha ricevuto molto, che ha fatto abbastanza rumore quando è uscita, e proprio perché era diversa dal solito, ma non era nemmeno una cosa troppo, troppo indipendente, troppo piccola, diciamo. Era comunque una cosa fatta a modino, ma che trattava un tema che non si tratta spesso, soprattutto venendo dal Giappone, dove c'è tutto un modo diverso di contemplare questo, questo ambito qua. E quindi questa, allora, è una, diciamo, per adulti non è porno, sì. Cioè, no, scherziamo, anche perché sennò che figura che ci faccio, che io ho urlato subito, io l'ho vista. No, allora è un po' fortina. Parla di porno, non è porno. Certe scene sono un po' fortine, però diciamo che fanno più ridere che altro, non lo so, sono buffe. Io ridevo di fronte a quelle cose lì, per la messa in scena, per... mi sto arrampicando sugli specchi, si capisce? Esatto. E ce n'abbiamo un'altra che anche questa potrebbe sembrare più volgare o più pesante di quello che è, che si chiama My Husband Won't Fit, la cui traduzione letterale è Mio marito non ci entra. È una storia invece molto delicata, molto carina, di questi vero, di questi due fidanzati, poi sposati, che praticamente loro si amano molto, va tutto bene, sono due ragazzi che si sono conosciuti all'università e vogliono fare gli insegnanti, tutti e due, tutti tranquilli, a modino, sempre giapponesi, e solo che succede che praticamente non riescono a concludere, mm-hmm. perché a lei, cioè, le si chiude quando è il momento di lui, capito? Diego! No, nel senso che c'è proprio un problema psicologico tale per cui... è vero, però nel senso non è una roba, aspetta, non so, mi sembra di essere arrivata alla zanzara, e questa è una serie TV. Io parlo di fantapolitica e di storia, di parlo di queste cose, francamente. No, veramente, io comincio, non lo so. Aspetta, è molto carina e molto romantica anche, perché loro... Sì, romantica. Allora, io ho davanti a me Roberta con la mascherina, quindi non capisco che faccia fa, ma vedo che rotola gli occhi all'indietro. Come fa a essere romantica se questi due non riescono a amare? Proprio perché diventa un po' metafora di determinati problemi che ci possono essere all'interno di una coppia, e tale per cui questi non riescono a fare le cose tra loro, le fanno poi con altre persone, ma sentitosi in colpa, perché loro non vorrebbero tradire, non vorrebbero fare, però si trovano, e diventa tutto un metaforone di un romanticismo un po' difficile. Ci sono anche dei ragionamenti sempre sulla società giapponese, sul fatto soprattutto che lei, la lei della coppia, viene... Ovviamente lei in prima persona si sente super colpevole, perché la società giapponese è un po' maschilista, e quindi se non riescono è soprattutto colpa di lei, no? È soprattutto colpa di lei, e quindi c'è tutta una sua profondità sociale di un certo tipo. Va bene, allora facciamo una cosa, ne guarderò almeno un episodio e vediamo se è davvero romantica. My Husband Won't Fit, vabbè, ok. Ti assicuro che è super delicatina. Ok, allora sono arrivati dei messaggi. Cristiano da Bergamo, tanti baci a Bergamo, bellissima Bergamo, amata Bergamo. Marta preparatissima sui porno giapponesi, dai, è mitica, non è un porno, non è Edoardo, scusa, che ti fa, no, non è un porno, ma no, è una serie che parla dell'indù, ma dai. E poi Daniele da Milano, la settimana scorsa avevo segnalato The Expanse, questa settimana torno al classico, ho riscoperto il Detective Monk. Beh, anche le riscoperte ci stanno, ragazzi, ci stanno. Poi, questo momento, secondo me, Monk è uno di quelli che ti dà una certa serenità d'animo. Sì, io mi riguarderei anche Colombo, anche se Monk è pure un po' germofobico. Urca. Che di questo periodo comunque magari aiuta, anche da un punto di vista di consigli casalinghi, è uno che sta attento sempre a toccare tutto, a non sporcarsi, ecco. In questo periodo forse fa anche bene, insomma. Allora, ragazzi, qualcuno mi racconta qualcosa da una delle industrie televisive che io amo di più al mondo, che è quella israeliana? Vai, Diego, quella... sei tu su questo. Vediamo se scegli la mia preferita. Allora, non credo che sia la tua preferita, non so se è la preferita di qualcuno. Questa serie che si chiama Stiesel. Sì, è la mia preferita. È la tua preferita. Sì, è la mia preferita. Stiesel, guarda, su Netflix, Stiesel. Esatto, è ambientata, diciamo, nella comunità degli ultraortodossi di Gerusalemme, che potete immaginare è una comunità molto ancorata al passato, contraria a qualsiasi forma di progresso, di tecnologia, in qualche modo timorati del cielo e di Dio in maniera clamorosa, e organizzano la propria esistenza consultando la Torah praticamente per qualunque questione e via dicendo. E al di là della storia poi precisa, che ovviamente parla di famiglie, di incastri, di relazioni che poi sono comuni al mondo, c'è questo filtro di essere appunto una comunità super ortodossa. Al di là dell'interesse per la trama o per l'atmosfera, è una serie anche abbastanza pesantina, tutto sommato, cioè ha un ritmo molto lento. Sì, è molto lenta, però è, non lo so, ha una sua dolcezza. Esatto, come quelli là che non gli entravano le cose, tutto ma, molto delicato. Tutto molto, ma no, ma questi, questi sono anche religiosi, ma Diego! Sì, no, ma tutto, non lo so. però c'è da dire che ha anche una specie di valore documentaristico molto elevato. Vero, è come se ti facesse entrare veramente in un posto super segreto di cui magari hai solo sentito parlare o hai visto qualcuno vestito in un certo modo che camminava per la strada, ma non sei mai entrato all'interno di quel mondo lì, e da questo punto di vista qua, non sono tanti episodi, permette anche di imparare qualcosa, secondo me, diciamola così. Non poi vi vergognate a trasmettere questo programma talmente stupido e frivolo mentre solo ieri ci sono stati 627 morti in tutto il paese? No, non ci vergogniamo per una ragione molto semplice. Noi stiamo offrendo un momento di leggerezza senza smettere di pensare a quello che ci sta attorno. Non a caso noi diamo dei consigli alle persone per passare il proprio tempo libero, perché noi tutti siamo ben coscienti che dobbiamo stare in casa, e chi come me e come i miei colleghi è costretto a venire al lavoro ogni tanto e non viene con serenità perché non ci si diverte a uscire, io non capisco quelli che si divertono a fare la passeggiata, sappiamo quanto sia importante fare ognuno il proprio pezzettino. Il mio pezzettino è quello di darvi dei consigli, a volte sorridenti, a volte leggeri, per passare il proprio tempo libero. Io la cosa di cui mi sono resa conto è stata che questa settimana per me personalmente è stata molto più pesante della scorsa settimana, e siccome ho paura che la prossima settimana sarà ancora più pesante di questa psicologicamente, forse è giusto trovare anche dei momenti per cercare di non smettere di pensare a quello che sta succedendo, ma far riposare un pochino i pensieri. E se viva Dio riusciamo a sorridere un po', e vi assicuro che le preoccupazioni ognuno di noi ce le ha anche nella propria famiglia, ragazzi, può solo farci bene, perché il periodo sarà molto lungo e molto difficile. Scusate se mi arrabbio, però alla domanda non vi vergognate, io divento matta. Scusate, ma vabbè, è andata così. Diego, Marco, io non lo so se dobbiamo star tranquilli, perché Diego mi sembra un po' frizzantino. È Unchained. Dopo Django Unchained, Diego Unchained. Ragazzi, c'è Roberta dall'altra parte del vetro che non ce la può più fare, io non lo so. Sta ridendo tantissimo. A stare in casa comunque tanto tempo è chiaramente Unchained. Ragazzi, allora mi piacerebbe tantissimo tenervi ancora di più, però qua il tempo stringe. Allora la rifacciamo, però ragazzi ho anche delle bellissime idee da raccontarvi nei prossimi giorni. Ci sentiamo tra di noi perché c'ho un'ideona, vabbè, ma non ve la posso dire in diretta perché sennò la svelo a tutto il pubblico. Bene, la devo prima dire a voi due. Tra di noi. Allora, grazie a Marco Villa, grazie a Diego Castelli, un abbraccio fortissimo, andate anche a leggere Serial Minds per tutti i consigli, ovviamente partiamo da quella molto, molto delicata e molto romantica, lo so, partiremo tutti da questa. Super delicatina. Quella super delicatina. Grazie ragazzi, a prestissimo, un bacio. Ciao. Allora, una brevissima pausa e poi saremo ancora insieme a Radio Tube. Radio Tube Social Village. Allora, lo abbiamo detto, il tempo libero chiusi in casa per tanti genitori, ragazzi, è un bell'impegno, perché allora io non ho bambini, però ho molti amici che hanno bimbi, primi giorni hai mille idee, poi ogni tanto cedi anche un po' con un po' di televisione e poi però bisogna, insomma, le idee non bastano mai, non finiscono mai. Ma ragazzi, ma sta arrivando qualcosa di nuovo, una piattaforma nuova. Adesso io non è che voglio far crescere i vostri figli teledipendenti come me, che dopo si rovinano da grandi come me, però dai, un po' di sorriso, un po' di leggerezza, anche qualcosa di positivo e di dolce per creare un ambiente più leggero attorno ai bambini, alla famiglia e non solo, anche a noi grandi. Cosa succede in questi giorni? Lo chiediamo subito a un grande amico di RadioTube. Lui scrive su Wired, ma non solo, Paolo Armelli. Ciao Paolo! Ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, caro Paolo, che cosa sta per arrivare? Una data fatidica che aspettavamo da molto, perché il 24 marzo anche in Italia, finalmente, e in altri paesi europei, arriva Disney Plus o Disney Più, ma credo che vogliano che si dica Disney Plus, la piattaforma streaming appunto di Disney. Disney, ma non solo, perché è un grande colosso televisivo, un grande gruppo, e quindi ha con sé tanti marchi come la Pixar, Marvel, Star Wars, quindi veramente tante cose da vedere. Allora, che cosa si potrà vedere? Mi fai un po' una panoramica di quello che sappiamo già, Paolo? Guarda, i numeri sono belli imponenti, perché sono veramente i comunicati ufficiali parlano di 500 film, 350 serie, quindi il tempo libero sarà bello occupato. Beh, banalmente ci sarà quasi tutto, e comunque continueranno a aggiornarlo mese dopo mese, il catalogo storico della Disney, quindi i grandi classici d'animazione, non so, Dumbo, Biancaneve, tutto il resto, film che abbiamo amato tantissimo, non so, come Mary Poppins, Sister Act, Tesoro, mi sono ristretti i ragazzi, tantissime ovviamente serie animate, cartoni per tutte le età, ma poi anche tante altre cose, perché appunto i marchi del gruppo Disney coprono veramente ogni spettro dell'intrattenimento, e quindi ci saranno i film Marvel, tipo Avengers, Capitan Marvel, tutta la saga di Star Wars, ma anche, molto attesa questa perché è proprio la serie di punta, la serie con cui Disney Plus proprio si lancia, è The Mandalorian, la prima serie televisiva live action, cioè con persone, con attori in carne ed ossa, tratta appunto, ambientata nell'universo di Star Wars. Vabbè ragazzi, io ho detto bambini, ma va bene per tutti, esatto, va bene assolutamente infatti per tutti, io mi voglio immergere, cioè famiglie, bambini, ma anche, ma tutti, dai, va bene per tutti. Adesso infatti un po' la che scusa dei bambini allieterà anche i genitori, perché ricordiamo appunto, visto che vi ho sentiti friccicarelli prima, in realtà tutto è a misura, diciamo, di bambino. Ecco, quelle di prima scordatevele. Che Disney è ovviamente fedele al proprio brand, diciamo, contiene praticamente solo cose che possono essere viste con i bambini, magari in fasce di età diverse, tipo immagino che i film Marvel o quelli di Star Wars, che abbiano un pizzico di violenza in più, vengano visti da ragazzini un po' più grandi, ma in realtà è tutto molto sicuro, e anzi ci sono delle opzioni, visto che si possono impostare più profili diversi all'interno della piattaforma, ci sono delle opzioni per mettere appunto dei profili in sicurezza in cui si possono vedere solo cose che i genitori approvano. Perfetto, ma ascoltiamo questa voce, tanto la riconoscete in un secondo. È un bricon, è un randagio, è malvagio, è un tesoro, è un birbon, ma l'adoro, beh, perfino a me lui ha spezzato il cuore. Beh, è un briccon, questa è una delle prime voci originali italiane che sono state scelte da Disney Più, Disney Plus. È un briccon nella versione italiana del brano He's a Tramp, viene dalla rivisitazione del classico d'animazione Disney del 1955. La voce, l'ha detto, l'avreste riconosciuta in un secondo. Arisa, benvenuta. Sì, ciao. Vabbè, impossibile, perché sei perfetta. Questa voce perfetta dal primo. Tra l'altro, guarda, ci sono anche i miei piccoli che vogliono partecipare all'intervista. Dai, come stanno? Come stanno? Come stanno? Stanno guarda, bene? Siamo tutti divanati e insomma sai, stiamo tutti, loro vivono sopra di me, nel senso che io mi metto su una poltrona, c'è il piccolino che parte, che si mette praticamente da una parte, è la piccolina che si mette dall'altra, cioè viviamo come fossimo insomma sempre in trio, sempre un tutt'uno, ecco, come se tu avessi Lily e il vagabondo a casa. Sì ma i tuoi piccoli si chiamano? Tiennino. Amore. Senti, sì. Che bello poter cantare. Allora, intanto cantare le canzoni dei film che abbiamo visto da piccoli è comunque bellissimo. Essere sì. scelta per entrare nelle case dei ragazzi e dei bimbi, com'è stato per te? Ma guarda, secondo me Disney Plus era proprio quello che mancava. E anche perché io da ragazzina sono una grandissima fan di Disney. Quando ero piccola io mi ricordo che avevo questa piccola televisione in bianco e nero in casa, che era una che i miei non usavano più, e che praticamente io, sai quelle lì ancora che dovevi girare la rotella certo. per trovare il canale? Allora il mercoledì davano su Rai 2 il film di Disney ogni settimana e io non vedevo l'ora, quindi per me in questo momento... essere scelta da Disney per una cosa così importante, per una celebrazione così importante, è come se non lo so, ho coltivato un sogno che alla fine è sbocciato, no? E siamo entrati in relazione. In realtà un po', già avevo fatto delle cose con Disney, però questa volta è diverso perché è una cosa più grande, fatta per le famiglie, fatta per grandi e piccini che possono effettivamente trovare un momento di condivisione tutti davanti alla TV. Che bello. Arisa, io sto seguendo in questi giorni tutte le tue cose che fai su Instagram, perché anche tu tieni compagnia, ti fai tenere compagnia, insomma, con queste dirette. È una cosa importante anche questa, stare vicino a chi ti segue e trovare un po' di condivisione in questi momenti. Sì, è una cosa importante perché comunque non bisogna lasciare da sole le persone, questo trovo che sia fondamentale perché è una cosa che ci è caduta addosso, sto parlando insomma di quello che stiamo vivendo un po' tutti, ci è caduta addosso senza preavviso in realtà, perché certe cose pensi sempre che debbano accadere agli altri, non debbano perché vuoi meno bene agli altri, però in realtà... ci sono delle cose che noi vediamo sempre in lontananza. Lontane, sì. E invece questa volta è capitato anche a noi e quindi bisogna fare quello che si può per cercare di sicuramente avere rispetto. Infatti in questi giorni, per esempio, per un paio di giorni non farò nulla perché secondo me è anche importante... avere un po' di rispetto per le persone che stanno andando via, che in Lombardia veramente abbiamo superato diciamo i lutti della Cina, insomma c'è qualcosa che non va, e quindi in questi giorni osserverò il silenzio su Instagram, però di base mi piace organizzare sempre delle cose divertenti che possano far passare il tempo, soprattutto ai miei Insta People Lovers che sono tanti sì, che ti vogliono, si sente, si sente il bene. Allora Rosalba, Arisa, io ti ringrazio tanto perché io so quanto sei appunto dolce, carina, io ti seguo e so che queste cose che fai le fai veramente con il cuore, con l'affetto per stare vicino a tutte le persone che ti vogliono un sacco di bene, si sente. Sì, io gli devo tutto, cioè veramente sono innamorata delle persone che mi hanno dato la possibilità di realizzare il mio sogno e quindi finché potrò non li abbandonerò mai. Grazie Rosalba, un bacio grande anche ai tuoi piccoli, un bacio grazie, grandissimo. Grazie Rosalba. Un bacio. Ciao Paolo Armelli. Allora, noi abbiamo preso nota di tutto. Arisa, sempre dolcissima, sempre di una umanità e tenerezza unica. Abbiamo preso nota anche delle cose da vedere. Allora Paolo, io ti ringrazio tanto, ti mando un enorme abbraccio e tanto ti disturberò di nuovo perché qua dobbiamo parlare tanto del nostro tempo libero in casa a voi, sempre con appunto il tentativo di trasmettere mandare anche un piccolo sorriso a tutti. Grazie Paolo, esatto, a presto. Grazie a tutti, grazie. Ciao, alla prossima, ciao. Allora, adesso viabilità e poi saremo insieme per parlare di musica. Radio Tube Social Village. Allora, a me piace la franchezza, ogni tanto lo so che mi arrabbio, ma mi piace la franchezza. Bello questo messaggio di Lorenzo da Venezia. Penso sempre che il tuo sia il peggiore programma di Radio 24, ma sono d'accordo con te rispetto alla sfuriata di prima. Grazie Lorenzo, però magari scrivimi qualcosa di più di quello che non ti piace, così io miglioro, cioè io imparo, voglio sapere come venire incontro a Lorenzo. Allora, musica. Farebbe male farsi male, meno male l'hai già fatto tu. Cercavo casa e ritornavo nella giungla, ma la giungla desi tu. Allora, lei si chiama Joan Thiele, ha un background cosmopolita perché la sua famiglia è veramente variopinta. Esce adesso con un EP in digitale che si chiama Operazione Oro. È davvero un disco molto bello che fa piacere ascoltare in questi giorni. Lei è stata coraggiosa perché non è facile uscire discograficamente in un periodo come questo, anzi un po' spericolato, glielo abbiamo chiesto raggiungendola telefonicamente qualche giorno fa. Sì, allora sicuramente contro le logiche discografiche effettivamente non so quanto i miei discografici siano contenti. No, vabbè, dai, scherzo, perché comunque sono tutte persone molto intelligenti e penso che vista la situazione, dal mio punto di vista era anche un po' una necessità, sicuramente perché ci sto lavorando da tanto tempo e secondariamente, non per importanza, anzi il contrario, è che è un momento talmente assurdo, no? Incredibile quello che stiamo vivendo, non ci sembra di essere all'interno di un film, no? Che sicuramente secondo me è un po' il compito del musicista, dell'artista, se non è proprio, cioè se non lo si tira fuori proprio in questi momenti così assurdi, saremo solo dei businessman, no? Che guadagnano dalla musica. Invece secondo me il concetto deve essere proprio, deve essere questo, deve essere molto forte, dobbiamo cercare di fare del bene, perché alla fine secondo me è uno dei compiti di chi fa musica, è questo. Abbiamo comunque un sacco di tempo libero da passare in casa, quindi ascoltare un disco ci fa stare meglio, e a me questo disco fa stare meglio. Meno male, sono contenta. Operazione Oro perché? Allora, Operazione Oro deriva, viene questo titolo che per me è un po' cinematografico per diversi motivi. Allora, il primo motivo è che questo disco a livello di sound è strettamente ispirato a tutto il mondo della colonna sonora di Piero Piccioni, Ennio Morricone, Henry Mancini. Diciamo che quello che ho cercato di fare a livello di produzione è stata un po' una mescla tra il mondo old style italiano, Mina, Ornella Vanoni, come musica parlo, unita un po' a tutte quelle che sono le mie influenze, che sono l'R&B, il pop, insomma, unire un po' tutti insieme quelli che erano i miei punti di riferimento. E quindi mi piaceva l'idea di dare un nome che fosse, cioè come dare il titolo di un film ad un album, e poi soprattutto perché io in Operazione Oro do diversi significati molto positivi, la vedo come una ricerca di sé, anche un po' il discorso della ricerca della bellezza aderente, cioè la bellezza anche un po' anacronistica, no? Cioè la ricerca del modello, sempre in cambiamento, insomma è tutto un insieme, però di base è la ricerca di sé, quindi che finisce nell'oro, che è una gestione molto positiva. Tu parli dell'altra te in un pezzo, poi però ci spieghi che Joanita è sempre la stessa, quindi ci sono questi due elementi. Esatto, grazie. Ci volevo arrivare. Sono contenta che ce l'abbia notato, cioè, era un contraddirsi, no? che era proprio, secondo me, quello che volevo comunicare, cioè il fatto del doc, il fatto di sentirsi all'interno di un momento storico in cui la tua identità cambia ogni due secondi, tu ti senti completamente diverso, ed è, noi che siamo molto abitudinari, è difficile, ed è un continuo disfidio che tu hai nei confronti della tua personalità. Credo che sia molto comune oggi questo tipo di sensazione, e paradossalmente capita a Fagiolo, perché in questo momento in cui siamo tutti chiusi in casa, cioè, il discorso del tempo, del dover stare dietro a determinate cose, ti fa proprio pensare anche a questo, no? In uno dei pezzi che erano già usciti, raccontavi del tuo voler tornare a volte bambina, ed è una cosa comune a tanti, no? Dire voglio tornare bambina, non avere paura dei giudizi, non avere paura. Dobbiamo essere più indulgenti verso noi stessi? Ma credo che sia, per me sia, cioè, scrivere questo pezzo sul fatto di doversi sentire bambina sia abbastanza importante, perché molto spesso tendiamo molto a automassacrarci, non abbiamo un'accettazione, non ci accettiamo, ecco. E quindi penso che sia importante, cioè sia molto importante avere questo tipo di atteggiamento nei confronti di noi stessi, essere appunto più leggeri. Penso che sia importante. Ci sono pezzi che parlano di te, della tua ricerca di te, però in medicina c'è anche un'altra persona, c'è il rapporto anche con l'altro. Sì, allora la medicina è il rapporto con l'altro, può essere interpretato in tanti modi, nella mia specifica situazione è il rapporto con un genitore, ed è il rapporto anche con tutti i derivati che ci possono essere, come le varie sostanze. Insomma, è una canzone molto dura per me, perché comunque vado a sottolineare e anche a vedere una persona che può essere un genitore, può essere un padre, viene raccontato non tanto quanto padre, ma tanto quanto essere umano. Quindi quella cosa lo disarma completamente, perché sembra magari una storia d'amore e invece è proprio l'accettazione anche di chi ci sta di fianco, cioè del fatto che comunque noi abbiamo delle immagini degli altri, vorremmo che gli altri fossero come immaginiamo noi, ma poi c'è anche la vita reale, fatta di persone che hanno dei problemi, che magari combattono delle proprie battaglie personali. In questo caso io le minimizzo con le medicine, ed è anche importante, secondo me, c'è proprio una cosa che ho sentito molto forte, è stato questo, cioè comprendere l'altro e accettarlo anche per quello che è. Ti aiuta poi anche a sentirti meglio per te stesso, perché non puoi salvare gli altri, non puoi salvare il mondo, devi accettarli, basta a volte. Prendermi la mano e dirmi che sto bene qui con me non è poco, peraltro poi in questi periodi dobbiamo prenderci la mano e dire sto bene con me. sì, diciamo che in questo momento è proprio così, no? A un certo punto ci si deve fermare e ci si deve dire io ce la devo fare da sola o da solo. E il fatto di tornare indietro nel tempo era proprio dire non mi pento, non mi voglio lamentare, anzi voglio prenderla così, prendila così. E se devo tornare indietro, cioè quindi se devo fare dei cambiamenti, li devo fare per me. Questa era un po' l'idea. Sono curiosa di sapere come sei messa in casa, cioè scrivi, hai la chitarra, i tuoi strumenti, componi? Allora, sì, allora, io ho il mio piccolo studio che è a Sinavigli, e adesso sono disperata perché non ho la macchina, e il mio ragazzo si rifiuta di, no, si rifiuta, però lui va in studio, lui dipinge, va in studio molto presto la mattina col suo certificato, l'autocertificazione tanto non vede nessuno, è da solo. E quindi io non sono ancora riuscita ad andare a prendere tutte le mie cose. Quindi adesso devo, per ora ho il computer, una chitarra, una tastierina e sto aspettando, ho ordinato su Amazon un po' di cose nel frattempo e poi domani spero di andare a prendere, domani e dopodomani spero di andare a prendere tutte le mie cose in studio così me le porto a casa. Già la casa è vuota, nel senso che io sono proprio minimalista in maniera ironica in casa perché ho 200 cose, quindi non so veramente dove le metterò, però ci proverò. Però sì, ecco, la mattina mi sveglio, faccio musica, cucino, ho riscoperto la cucina. io in realtà non sto male, cioè, penso tanto, sto cercando di prenderla nel modo migliore. Io la prendo nel modo migliore ballando. Ecco, super. Allora, ti faccio un in bocca al lupo grandissimo, un abbraccio e spero di incontrarti de visu quando tutto sarà finito, ci faremo una grande chiacchiera. Grazie a te davvero, ti abbraccio. Grazie Giovanna, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao. Sono un colore, tu mi puoi cambiare nome ogni volta che io sono distratta. Cerco una fotografia, qui l'identità è la mia. Ho tre passaporti ma non basta, no. Joan Tile, Operazione Oro, andatevelo a sentire anche per il coraggio di questa ragazza che esce in questi giorni difficili con un disco nuovo. Adesso ci interrompiamo, c'è il giornale radio preziosissimo delle 17, poi saremo ancora insieme con RadioTube.